L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio, ben ritrovati a tutti per questa puntata dell'Altro Pianeta che davvero vi porta su un altro pianeta, vi dà l'opportunità, diciamo così, di andare su un altro pianeta se vivete in città, se avete voglia di cambiare, se sognate la campagna o volete lavorare in campagna. Tra l'altro vi porteremo in una delle campagne più note d'Italia, quindi seguiteci perché l'opportunità di cambiare vita c'è davvero per i giovani, ma anche per qualche giovane di spirito, non solo di età. Parliamo in questa puntata di un progetto che è partito da alcune semplici ma fondamentali constatazioni. La prima: in Italia sono presenti oltre 4 milioni di terreni incolti, così almeno dice l'ultimo censimento sull'agricoltura, e solo una minima parte di questi sono di proprietà pubblica, quindi tutto il resto è privato. Seconda constatazione: in campagna sempre più aziende agricole sono a rischio chiusura perché non c'è ricambio generazionale, perché si hanno meno figli di un tempo oppure perché i figli hanno deciso di andare a lavorare altrove, in città, e quindi tante aziende agricole a rischio chiusura. Terza constatazione: in città sempre più giovani e meno giovani, spesso inattivi ma a volte anche occupati senza molta soddisfazione, sono almeno idealmente attratti dalla campagna. Ecco, considerato tutto questo, l'Associazione Contadini delle Langhe, in collaborazione con altre organizzazioni locali, ha ideato e varato il progetto Terre Originali per dare reali opportunità di lavoro nelle Langhe. Nostro ospite in questa puntata è Fabio Palladino, che è il coordinatore di questo progetto, ma è anche ovviamente un agricoltore, quindi la persona giusta, direi, per parlare di quello che accade nelle nostre campagne, quello che accade davvero, non quello che immaginiamo. Buon pomeriggio, Palladino. Buongiorno, Bettini. Coordinatore del progetto Terre Originali, c'è un interessante sottotitolo che ho letto. Non avevo notato all'inizio. Come possiamo aiutare le nuove generazioni a riappropriarsi della nostra terra? E direi che questo spiega tutto, e tra poco gli ascoltatori lo capiranno, perché riappropriarsi della nostra, quindi vostra, terra. In cosa consiste questo progetto di cui lei è coordinatore? Allora, questo progetto ha l'obiettivo di avvicinare e facilitare l'incontro tra terra e giovani. Secondo noi è fondamentale per i prossimi anni che la terra che sarà disponibile, perché la terra c'è, e i giovani che stanno arrivando in qualche modo si incontrino per creare lavoro, difesa ambientale e sviluppo sociale, integrazione in comunità. Questo è l'obiettivo alto e concreto che si dà a questo progetto. Progetto che è stato varato, lanciato quando? Ovviamente ci avete lavorato molto prima, ma quando è che poi è stato, diciamo, presentato pubblicamente? Questo progetto è più o meno 4-5 anni che all'interno della nostra comunità se ne parla, ispirato appunto dai Contadini delle Langhe, che è questa associazione che in qualche modo anche mi permetto di rappresentare. È stato lanciato il bando, proprio quindi il primo passo vero, concreto, il bando per dare la terra ai giovani l'11 di novembre del 2014. E lo chiuderete questo periodo? Lo chiuderemo entro fine gennaio. Diciamo che la scadenza per definire i primi 10, che noi chiamiamo finalisti, la rosa dei 10 finalisti, a metà febbraio, per poi da questi 10 il progetto migliore, o se riusciamo anche i 2 o i 3 progetti migliori, riceveranno questo aiuto di territorio e di comunità a partire dalla primavera 2015. Quindi devono essere proprio pronti a partire, ecco, coloro verranno scelti. Allora, chi cercate? Vediamo un po' di magari scandagliare anche gli ascoltatori. Chi cercate? Ma fondamentalmente cerchiamo dei giovani, non fissiamo un'età. Diciamo giovani di spirito, giovani con passione per la terra, l'agroalimentare, e che abbiano l'energia e le risorse e anche un progetto valido, imprenditoriale, per investire nelle Langhe. Diamo qualche elemento in più. Investire nelle Langhe vuol dire venire a vivere lì, lavorare lì, diciamo trasferirsi in un certo senso, cambiare vita, ma soprattutto cambiare lavoro. Assolutamente sì. Sicuramente, beh, in primis noi ci rivolgiamo anche a giovani autoctoni, però sappiamo, perché i numeri sono impietosi da questo punto di vista, che sono veramente pochissimi i giovani oggi interessati a locali a investire in agricoltura e quindi ecco perché ci rivolgiamo a livello nazionale. Sì, bisogna essere disponibili ovviamente a trasferirsi qui, ecco perché parliamo anche di un progetto di accoglienza comunitario, quindi non è solo assistenza tecnica quella che offriremo, ma vera e propria accoglienza. E quindi bisogna essere disponibili, come dire, a venire a vivere in un luogo che tra l'altro è bellissimo, perché si sta benissimo qui, bisogna anche dirlo. No, sa perché le chiedevo del trasferirsi? Perché le Langhe, ma come altri territori, diciamo, pregiati italiani, hanno proprietari, investitori che comprano lì, ma poi non vivono lì perché lo fanno come un'attività che poi viene portata avanti da altri. Questo non è quello che voi cercate, cioè non cercate una persona che mandi i soldi. No, noi cerchiamo persone che vengano a vivere e trasferiscano il loro centro di interessi individuali, sociali, umani, prima di tutto qui nelle Langhe, perché il fenomeno di cui lei ha accennato, che è tuttora in corso e quindi non ha bisogno di aiuti, di incentivi, che avviene da solo, non ci interessa perché non è fautore di sostenibilità futura, secondo noi. Quindi, nonostante voi abbiate avuto questa piccola invasione, diciamo, questo non ha portato un beneficio alla comunità, capire, no? È così, mi spiego meglio. In realtà del beneficio è arrivato, perché in questi anni, negli ultimi 30-40 anni, sono arrivati molti stranieri che hanno deciso di portare qui il loro momento di vacanza e quindi hanno magari recuperato abitazioni, alcuni anche terreni. Sono arrivati anche alcuni imprenditori che hanno, come dire, diversificato la loro attività, ma non rendendola la principale, magari in qualche importante azienda vitivinicola. Quindi sicuramente hanno contribuito a un mantenimento di territorio, però quello che noi diciamo è che abbiamo bisogno di persone, di idee, di energie, prima di tutto, che coltivino la terra, perché è diverso. Allora, capisco e non capisco, in cosa è diverso? È diverso nel modo col quale si approccia la coltivazione della terra, perché la terra, noi siamo partiti da una riflessione, è un bene comune, non è un bene produttivo come un altro. Mantenere in buono stato, coltivare il terreno, vuol dire oggi, oltre che fare economia, oltre che fare ovviamente impresa, vuol dire anche produrre una serie di esternalità positive sul territorio, no? Quindi evitare dissesto idrogeologico. Se si fa un certo tipo di agricoltura, quella biologica, diciamo noi, non si inquina. E poi ci sono delle esternalità legate alla vita sociale, alla vita comunitaria. Quindi essere presenti sulla terra vuol dire contrastare quello che è successo, per fare due citazioni un po' dei nostri autori, no? Solo 60 anni fa Fenoglio ci raccontava la malora delle Langhe, no? Bisognava andare via perché comunque non si viveva di agricoltura. Nel mondo dei vinti e nel popolo che manca, Nuto Revelli ci ha descritto anche in questo caso tutti gli effetti negativi. Bene, noi pensiamo che ritornare a vivere in queste terre, quindi ripopolare piccoli villaggi, piccoli paesi che sono bellissimi tra l'altro, con una certa qualità della vita, possa ripartire proprio dall'agricoltura. E qui ne aggiungo un pezzo, non è solo agli agricoltori che noi ci rivolgiamo, secondo noi, ed ecco che quindi ben venga una immigrazione anche di altro tipo, ci sono dei luoghi meravigliosi in cui vivere e magari portare avanti un discorso non agricolo ma professioni nuove, immagino per esempio il giornalista, come fa lei. Sì, nelle Langhe? Perché no? No, certo, come base uno può anche averla lì, poi dopo deve avere possibilità di muoversi sul territorio, adesso lì dipende poi dai collegamenti, ci sono luoghi più adatti e meno adatti a questo. Ma invece però le volevo chiedere, al di là di tutto, tornando un passo indietro, quindi non alle altre professioni, ma quella specifica dell'agricoltura, oggi lì si può vivere di agricoltura? Sì, oggi si vive. Non è più come era, insomma, diciamo. Allora, premesso che non, non la stiamo semplificando, non stiamo dicendo che è facile vivere di agricoltura, anzi diciamo che è difficile vivere di agricoltura, ma se la domanda è si può vivere, si può vivere. Si può vivere nella filiera, ovviamente la più scontata, quella vitivinicola, è inutile che ne parlo, ma la cosa molto interessante è che nel nostro areale, specialmente in questo areale che si sviluppa lungo il fiume Tanaro, tra Ceva, Mondovì e Cherasco, passando per Clavesana, Dogliani, Carrù, quindi un'alta langa, una langa magari meno conosciuta di quella del vino, c'è una grande biodiversità e quindi si può coltivare la nocciola, si può coltivare si può fare pastorizia e caseificare, si può, e questi sono già casi di cui le sto parlando, di aziende agricole che vivono e che se ce ne fossero altre ci sarebbe spazio sul mercato, e perché no anche ortofrutta. Chiaramente tutto questo va fatto secondo noi con un modello di sviluppo che è quello un po' di questa zona, tante piccole realtà, conduzione familiare, biologiche, biodiversificate, che vendono il più possibile direttamente il loro prodotto. Quindi insomma adesso possibilità c'è. Sai cosa mi incuriosisce? Che negli ultimi anni leggiamo sempre più spesso nelle statistiche che tanti giovani invece hanno scelto la via delle campagne. Lì che è un posto così pregiato, invece avete l'idea che non stia accadendo questo? Avete, anzi lo vedete, insomma lo constatate che non sta accadendo? Sì, basta riferirsi ai numeri. In realtà il tema del ritorno ai giovani, a mio avviso, anche dai mezzi di comunicazione, specialmente negli ultimi 3-4 anni, viene trattato con un po' di superficialità. Noi oggi, se parliamo degli ultimi 10 anni, a fronte di un giovane, e questi sono dati statistici del Ministero dell'Agricoltura, confermati dalle organizzazioni sindacali, a livello italiano e a livello anche delle Langhe o della provincia di Cuneo, che è considerata una delle province agricole più sviluppate, differiscono di poco. I dati sono questi: ogni giovane che entra in agricoltura, 4 anziani hanno lasciato negli ultimi 10 anni. I conti sono presto fatti. L'altro pianeta. Di nuovo ben ritrovati a tutti, ai nostri ascoltatori e al nostro ospite Fabio Palladino, coordinatore del progetto Terre Originali, che nasce nelle Langhe, quindi in Piemonte, per ripopolare le Langhe di agricoltori. È diretto principalmente ai giovani, l'idea di base è di aiutare chi voglia trasferirsi in quest'area per lavorare la terra. E aiutare in che modo? Beh, aiutare nell'individuare la terra incolta o destinata all'abbandono, aiutare con consigli e suggerimenti di lavoro, aiutare creando una rete sociale che accolga fin da subito il nuovo venuto. Palladino ci diceva poco fa che questo tanto sbandierato ritorno dei giovani all'agricoltura non è poi così impattante e numeroso, comunque non contrasta il numero di persone che sono in uscita ogni anno dal mondo dell'agricoltura. Per ogni giovane che entra, infatti, ci sono 4 anziani che escono. Quindi cosa accade, Fabio Palladino, alle aziende agricole che di anno in anno chiudono, ci sono acquirenti dall'estero o che altro accade? Ma allora, questo è un fenomeno interessante che noi stiamo indagando grazie al contributo dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, che abbiamo la fortuna di avere tra i nostri sostenitori, che sta un po' mappando il territorio. Succedono diversi fenomeni, molti terreni rimangono incolti sicuramente, altri vengono assorbiti da aziende agricole vicine che magari hanno un interesse a espandere la loro capacità produttiva. In alcuni casi si manifestano delle cose un po', dei fenomeni un po' negativi. Uno su tutti, che almeno nella nostra area succede, vengono affittati a prezzi non di mercato dei terreni da parte di aziende agricole che hanno bisogno sulla carta di avere terreni per smaltire i rifiuti delle deiezioni animali. E quindi, per dire, lasciando, questo perché lo dico? Perché se si lascia comunque un presidio, poi qualcun altro ci pensa ad occuparlo. Sì, e non è detto che lo occupi con un in modo vantaggioso, diciamo, per chi abita nella zona, magari, perché esatto, comunque sicuramente non per la comunità, quindi ritorniamo al bene comune, magari per il suo vantaggio individuale quella è la soluzione migliore, però ecco che diciamo è fondamentale avere una programmazione anche territoriale, no? Perché se lasceremo che tutto accada, questo fenomeno di terre riemerse, diciamo noi, che succederà nei prossimi 10-15 anni, vada così, cioè, non ci sia in qualche modo una programmazione del presidio, del nuovo insediamento, avremo delle esternalità negative importanti sotto tanti aspetti da questo punto di vista. Certo, e tra l'altro c'è un impatto generale sul sistema agricolo italiano e della produzione del cibo di cui tutti noi abbiamo bisogno, poi, perché l'abbandono corrisponde poi a una mancanza finale. Perfetto, bravissimo. Io quando mi chiedono sì, ma il mercato c'è, basta citare gli ultimi dati, anche questi pubblici, del mercato del biologico. Perché voi lì puntate molto sul biologico, siccome già l'ha nominato un paio di volte. Noi come progetto puntiamo molto sul biologico, ci speriamo molto, anche in questa area causa secondo noi un po' di fermento, insomma un po' di non siamo molto aiutati dal mondo del vino, ecco, questo secondo noi il mondo del vino, se prendesse l'opzione del biologico con molta più decisione in un areale come questo avremmo una spinta più importante. Quindi questo per dire che sì, il biologico c'è anche da noi, ma come a livello nazionale in numeri troppo bassi. Perché le dico questo? Perché noi come paese importiamo tantissimo biologico da paesi come la Germania, per esempio. Quindi quando mi si dice ma c'è spazio per il mercato, io rispondo sì, non solo perché, come dire, la mia azienda agricola ce la fa come esperienza singola, ma anche proprio come analisi economica. Certo, e poi nel generale complesso della produzione, la notizia di qualche giorno fa, insomma, era sui giornali, che le condizioni climatiche avverse e probabilmente anche una serie di situazioni così hanno portato l'Italia a avere praticamente scorte poche e nulle per quest'anno che abbiamo davanti, grano, mais rovinato dai funghi, le olive sappiamo benissimo che non ce ne sono state, quindi tutta una serie di situazioni che dovrebbero farci riflettere, perché quello che troviamo nei supermercati c'è, ma perché viene da altrove, perché se dovessimo guardare al nostro non ci sarebbe. Ma assolutamente, ma infatti quando parliamo di scelta di agricoltura come scelta romantica, qualcuno mi fa l'obiezione che dice sì, oggigiorno lavorare in agricoltura è una scelta romantica, ma abbiamo una risorsa incredibile su cui siamo seduti sopra, parlare oggi di prodursi il cibo non è un'opzione economica per un paese come il nostro. E come se lo è? E quindi di cosa stiamo parlando? Allora diciamo di essere concreti, diciamo a questi giovani che fare l'agricoltura è difficile, non illudiamoli, ma si può fare, diamo delle informazioni. E infatti il nostro progetto delle terre originali non vuole dare soldi, i soldi ce ne sono già tantissimi nei piani di sviluppo rurale, arrivano dall'Europa incredibilmente troppi, forse anche troppi soldi, però orientiamoli nel modo giusto. Favoriamo la possibilità che un giovane oggi, se ha voglia di fare agricoltura, sia un po' facilitato e riesca per esempio a insediarsi in un'azienda agricola che non ha futuro. Non ha futuro solo per fattori anagrafici, non perché non c'è mercato, ma se io oggi sono un anziano di 70 anni, nei prossimi 5-10 anni non ho figli o i miei figli hanno fatto altre scelte, a chi le lascio la mia azienda agricola? Possibile che non si può pensare a livello di sistema paese anche un contratto di inserimento, considerando anche la specificità del settore, perché se noi oggi pensiamo che avviare un'azienda agricola prima che inizino i primi frutti passano 5 anni, stiamo parlando di avviare un negozio di telefoni cellulari in una qualsiasi via di una città italiana, stiamo parlando di cose diverse. Sì, sì, si tratta di programmazione, di competenze, non che nel negozio del cellulare non ci sia la competenza, ma è un altro tipo di attività, insomma. Ecco. Esatto, un altro tipo di modello di economico. Se non si capiscono queste cose, se io vado in banca e regolarmente mi viene proposto un mutuo a 7 anni, cosa me ne faccio di un mutuo a 7 anni per avviare un'attività. Certo, che poi magari guadagno tra 5 e da 7 forse ci arrivo a mettere qualche soldino, certo. E allora è facile la considerazione di dire solo chi ha le risorse ce la fa. Per come è configurato il sistema oggi, almeno in Italia, sicuramente questo è vero. Però noi diciamo che si può fare anche come dire, con meno risorse capitali, con delle buone idee, dell'energia, della passione e poi con un'accoglienza di tipo comunitario che è importantissimo, che ti sostiene. Quindi i fenomeni delle AMAP francesi o delle comunità di supporto americane, cioè non è che stiamo parlando di fantascienza, no? Parliamo di situazioni che esistono già, magari realizzate in altre parti del mondo, dove la comunità si rende conto che un contadino oggi non è che produce solo un bene, ma presidia un territorio, evita delle esternalità negative sotto forma di dissesto idrogeologico, di inquinamento. Chi lo paga questo? Dunque, lei mi ha già fatto venire voglia di candidarmi, ma ricapitoliamo quali sono i requisiti, che non c'è un limite d'età preciso, ma è la gioventù di spirito, preferibilmente giovane comunque. Adesso che siamo in chiusura dobbiamo tirare un po' le somme della proposta. Preferibilmente giovane perché i tempi di ritorno sono comunque più lunghi di altre attività in cui uno va. Mm-hmm. La cosa fondamentale però per noi saranno il progetto, saranno due: la passione che si dimostra, quindi la motivazione l'equilibrio del progetto. Cioè presso il comizio agrario di Mondovì si è insediato una sorta di commissione, un osservatorio, sono delle persone che a titolo volontario ma con competenze analizzeranno tutti questi progetti e i progetti che dal punto di vista della sostenibilità economica, ambientale hanno secondo noi i requisiti per farcela riceveranno un aiuto. Chi si candida non sa esattamente quale sarà il terreno sul quale lavorerà, quindi presenta un progetto diciamo di linee generali, al di là del fatto che poi abbia tutte queste specifiche di eventuali sostentamenti economici, come faccio, cosa non fa, però non potrà essere tanto preciso perché non sa dove va. Probabilmente noi abbiamo già una decina di richieste che stiamo analizzando, che è proprio notizia dell'inizio dell'anno. E ci immaginiamo che comunque riceveremo due tipologie di progetti, da persone più locali che chiaramente hanno una serie, magari hanno già un progetto in stato avanzato, hanno già anche già individuato una situazione, no? In cui sviluppare il progetto e quindi sarà molto più circostanziato, oppure delle situazioni un po' più diciamo ideali. Esatto, e comunque le valuteremo in questo senso. Le faccio un esempio, no? Abbiamo avuto conoscenza negli ultimi 2 anni di 3 produttori che hanno iniziato a produrre lo zafferano nelle Langhe vicino alle vigne di Barolo. Eravamo scettici, abbiamo verificato e effettivamente è una buona idea, è una grande bella idea, anche perché crediamo nella biodiversità, è la biodiversità che ci aiuterà a sviluppare un'attività con l'altro. Sì, e tra l'altro a mantenere un equilibrio in un territorio che, come diceva prima, ha una forte vocazione vitivinicola e quindi viene sfruttato spesso solo per quello, ma questo poi sappiamo tutti che non è un beneficio, ecco, per tutto l'ecosistema. Assolutamente sì. Ringraziamo Fabio Palladino, coordinatore del progetto Terre Originali, così lo ripetiamo, e magari ci aggiorniamo a quando avrete fatto tutta la vostra scelta, analisi di tutti i progetti, così magari ci dite un po' come è andata a finire, insomma. Molto volentieri, grazie a lei e tanti auguri a tutti.